Ed eccoci qua con Entropia Massima. Questa sera parleremo con Davide. Il titolo della sua rubrica è Tecnologia e Rivoluzione, e questa sera parleremo, sarà un po' un'introduzione sull'intelligenza artificiale. Quindi lascio la parola a Davide ed eccoci in voce. E allora, buonasera a tutti e tutte, eccoci finalmente alla prima puntata dedicata al filone sull'intelligenza artificiale. Lo abbiamo introdotto durante la scorsa puntata, in cui abbiamo fatto un po' l'agenda della trasmissione per l'anno 2017-2018. Eccoci qui a parlare di intelligenza artificiale, un tema che ci voleva, ormai è un tema entrato abbastanza nel mainstream, quindi non siamo neanche troppo originali. Che cos'è l'intelligenza artificiale? Oggi proveremo a dare alcune definizioni e un pizzico di storia, ma soprattutto faremo degli esempi, perché è inutile sprecare il tempo in definizioni accademiche. Parliamo in concreto, no? Così almeno capiamo di che cosa si parla prima di poter poi dire qualcosa di politico. Allora, per intelligenza artificiale si intendono sistemi hardware e programmi software, le due cose, che sono capaci di erogare servizi, quindi di avere delle prestazioni e di fare delle cose che a un osservatore comune, cioè a un osservatore umano, sembrerebbero essere di pertinenza esclusiva dell'intelligenza umana, cioè in buona sostanza compiti che sono tradizionalmente appannaggio dell'approccio dell'Homo sapiens, vengono svolti da macchine. Allora, come si può definire l'intelligenza artificiale? Beh, ci sono vari modi. Uno è quello che parte dalla somiglianza con il comportamento umano, cioè una macchina si comporta in modo simile a come si comporterebbe un umano. Oppure una definizione che riguarda il comportamento ideale di una macchina, quindi detto comportamento razionale. Allora diciamole alcune di queste definizioni. Agire umanamente, ecco, il risultato delle operazioni che vengono compiute da un sistema intelligente non è distinguibile da quello svolto da un essere umano. Questo è abbastanza facile come definizione, quindi non si è in grado di dire se lo ha fatto un umano o una macchina. Oppure pensare umanamente, quindi il processo che porta il sistema intelligente a risolvere un determinato problema ricalca il processo che avrebbe seguito un essere umano. Questo è un approccio tipico delle scienze cognitive. Oppure pensare razionalmente, cioè il processo che porta il sistema intelligente a risolvere un problema è un procedimento formale che si rifà alla logica, si utilizza la logica. Oppure agire razionalmente, cioè il processo che porta il sistema intelligente a risolvere un problema è tale per cui si ottiene il miglior risultato possibile date le informazioni a disposizione. Tutte definizioni che afferiscono a diverse scuole di pensiero, ma che più o meno ci danno un'idea di quello che è. Abbiamo detto quindi che l'introduzione della intelligenza artificiale, si dice da più parti, far sì che gli esseri umani saranno sempre meno utili, e si prevede che ci saranno solo pochi singoli individui umani molto preziosi, quindi delle elite di superuomini potenziati. E quindi è evidente che c'è una telefonata, prendiamola in diretta. Giustamente, ecco, abbiamo ricevuto una telefonata, vediamo se chi ha chiamato vuole andare in diretta. Vuole andare in diretta, allora lo agganciamo. Gente. Sì, però vuoi andare in diretta? Ok. Vabbè, però tanto ti metto in diretta. Sì. Allora, chi parla? Ciao, buonasera a tutti, sono Alfredo. Grazie per la trasmissione e avrei una domanda, come dire, molto semplice da porre. Sì. E scusatemi anche, come dire, magari per la domanda stessa. Però quando, come dire, si vuole giudicare un'intelligenza appunto artificiale, quindi fissare dei paradigmi, no? Si dice sempre che deve essere dall'essere umano indistinguibile rispetto al comportamento appunto di un altro essere umano. Però il problema è questo, io mi sono sempre chiesto, ma l'essere umano che fa appunto questo, che dà questo giudizio, è Einstein o il mio macellaio sotto casa? Perché ovviamente, come dire, le modalità di giudizio sono completamente differenti, con il massimo rispetto per entrambe le persone. Era solo questo, insomma, cioè fissare anche, come dire, magari un percorso di giudizio per questa ventilata intelligenza che possa prescindere dal fatto che possa essere un essere umano a giudicarla e che quindi possa essere anche essa stessa implementata in un'altra intelligenza diversa. Ma guarda, quale dei due casi... Spero che non sia stata troppo stupida come domanda. No, volevo però chiederti quale delle due situazioni secondo te è più interessante e per giudicare un'intelligenza artificiale, cioè quella del macellaio sotto casa o quella di Einstein? Quale delle due? Non lo so. Perché è uno, come dire, un uomo di scienza. Io direi che quella di Einstein è quella più interessante, perché diciamo Einstein come metafora dell'uomo molto intelligente, no? Sì, quindi... però magari è intelligente, però non è furbo. E magari per riuscire a sopravvivere, per riuscire a dare, come dire, qualcosa che possa essere giudicato interessante e quindi magari possa anche trascendere la logica, magari il giudizio del macellaio è migliore. Può essere, è interessante questa... ma è veramente una domanda che ho sempre fatto però me stesso. A questo punto ti inviterei a seguire la trasmissione, certo. E grazie per averci chiamato innanzitutto in apertura, perché oggi porteremo una serie di esempi che in qualche modo oscillano tra le due estremità che tu hai indicato, cioè ci sono esempi in cui forse entrambe le capacità umane vengono toccate. Poi magari ci dirai tu se guarda, se entropia la seguo sempre e comunque da diversi anni, quindi il problema non si pone. Grazie molto. Grazie a te. Ciao, un abbraccio a tutti, ciao. Allora, torniamo diciamo alla trasmissione. Questo intervento comunque l'abbiamo preso e penso sia sicuramente interessante, anche il fatto che sia arrivato proprio all'inizio, in cui stavamo dando le prime definizioni, ci darà anche modo di pensare ad una risposta da dare durante la trasmissione. Ad ogni modo, dicevamo, esseri umani sempre meno utili, esseri singoli, pochi, evidentemente i più ricchi, elite di superuomini potenziati, per le masse ci sarà quindi una perdita verticale di valore che sicuramente è economico ma è anche militare, cioè pensiamo a cosa significhino le masse per il mondo militare o per il mondo delle rivoluzioni, masse di persone che si rivoltano oppure masse di persone che entrano in eserciti. Finora le cose sono andate così. Ecco, questa cosa sta scomparendo, cioè mano a mano sta scomparendo, vedremo come. Tralasciamo la storia, magari la prendiamo in un'altra trasmissione. Vi voglio solo dare una data: 1943. Due studiosi, McCulloch e Pitts, per la prima volta parlano di un modello di neuroni artificiali. I neuroni che possono essere accesi o spenti, on e off, con un passaggio a on in presenza di stimoli causati dai neuroni circostanti. Questa fu la prima volta in cui si cominciò diciamo a parlare di reti neurali, ecco, 1943. Poi ovviamente ci sono altre date che adesso non vediamo, vediamo successivamente, però questo per dire che poi tutta la fantascienza anni 50, anni 60, non a caso si occupò di queste tematiche. Allora, dicevamo il mondo militare, partiamo dal mondo militare, perché è abbastanza facile capire se parliamo di mondo militare. Abbiamo detto quindi queste masse di persone storicamente sono carne da macello che viene mandata a fare le guerre, no? Così funziona, la guerra è questo, non è altro che questo. E beh, oggi invece parliamo di droni privi di pilota e di virus informatici. Queste sono le armi che si usano oggi, armi per le quali non c'è bisogno di masse di persone, c'è bisogno di pochissime persone, idealmente anche zero, e quindi ci sono macchine che svolgono compiti diciamo che storicamente venivano svolti da persone. Già adesso stiamo notando che i generali degli eserciti vanno a delegare le decisioni ad algoritmi. Quando un generale deve prendere una decisione strategica, prende in considerazione tutta una serie di elementi. Ecco, oggi ci sono le macchine che lo fanno per lui in maniera estremamente più efficiente. Per quale motivo dovrebbe scegliere un generale? No, vi ricordate, questo già se ne parlava diciamo alla fine degli anni 70 con appunto film di fantascienza, in particolare quello che mi è venuto in mente è War Games, giochi di guerra, in cui c'era questo cervellone che in modo autonomo prendeva, calcolava delle strategie militari. Ecco, quindi questa cosa già sì, se ne parlava. Oggi sta avvenendo, è così, già avviene. E perché? Beh, gli esseri umani innanzitutto sono soggetti a paura, fame, fatica. Le macchine no. Poi gli esseri umani sono imprevedibili, non si sa come possono agire. Invece no, le macchine da questo punto di vista c'è una certa prevedibilità, anche se su questo pure mettiamo un asterisco e ci ritorniamo. Poi scala temporale. Noi come scala temporale le nostre discussioni durano ore, le nostre battaglie durano giorni, le guerre durano anni, no? Questo più o meno funziona così nel mondo militare, no? Invece se parliamo di guerre cibernetiche parliamo di minuti, cioè pochi secondi. In pochi secondi succedono cose, inizia e finisce una guerra. Quindi in pochi secondi la rete elettrica degli Stati Uniti può essere fuori uso, il traffico aereo degli Stati Uniti può essere fuori controllo, ci possono essere incidenti in impianti nucleari, in stabilimenti chimici, oppure le reti di comunicazione di polizia, esercito, servizi segreti possono andare in crisi, oppure ancora si possono cancellare in pochi secondi i movimenti finanziari di un paese. E quindi la guerra, cioè, inizia e finisce dopo pochi secondi, e noi non abbiamo questa scala temporale, noi non possiamo confrontarci con chi ha questi poteri, cioè le macchine, gli algoritmi, non è roba umana. E poi quando si parla di drone pilotato, drone non pilotato, si dice ma questi droni che mandano, insomma, ma non sarà poi giusto che vengano comunque pilotati da un essere umano? Beh, allora, a livello tecnologico è possibile anche che non siano pilotati, cioè che prendano decisioni autonome, no? La domanda che io pongo prima di andare in pausa è questa: secondo voi, se ci sono due stati, uno c'ha dei droni che per legge devono per forza essere pilotati da un essere umano, un altro c'ha dei droni che per questo non c'è questo vincolo legale, quindi possono anche agire non pilotati, chi vince? Allora, 06 49 17 50 per intervenire. Intanto andiamo in pausa e ci ascoltiamo un pezzo dei Rage Against the Machine. those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces draw the same that burn crosses. Killing in the name of. Killing in the name of. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. Those who die are justified for wearing the badge and your chosen right. You're justified. Allora, ritorniamo in diretta, 06 49 17 50 il numero per intervenire. Il tema evidentemente ha subito sollevato un interesse da parte degli spettatori. Noi siamo sempre contenti quando ci chiamano. Stiamo parlando di intelligenza artificiale, dicevamo, il mondo militare, un mondo dove le cose vengono spiegate in maniera semplice. Allora, immaginate in questo scenario di fantasia, 2093, una decrepita Unione Europea manda droni e cyborg per soffocare una nuova rivoluzione francese, e la Comune di Parigi cosa fa? Chi chiama? Chiama masse di persone? Ma forse chiamerà degli hacker, forse userà computer, smartphone. Gli uomini a cosa serviranno? Solo come scudi umani. In fondo questa roba già è così, già oggi gli uomini sono spesso usati come scudi umani, già oggi gli eserciti mano a mano diminuiscono i loro effettivi, non ci sono più le coscrizioni obbligatorie in molti stati occidentali, quindi è una tendenza ben nota. Ma andiamo avanti, perché facciamo esempi anche fuori dal mondo militare, vediamo il mondo economico, no? Allora, come metafora, tenere in mano un martello o spingere un bottone, queste sono le due attività che attualmente sono, come metafora, le cose che fa un uomo quando lavora. Ecco, diventano sempre meno preziose. Perché? Perché appunto le masse lavoratrici vedono evaporare la loro importanza economica con il tempo, no? E allora uno si chiede, ma basterà la morale a proteggere la libertà e i diritti umani, visto che non paga più, non c'è più valore nelle cose che fanno le persone, no? Nella loro come lavoro, che cosa potrà servire, cosa ci potrà essere utile per difendere la morale, per difendere la libertà e i diritti umani? La morale, insomma, un bel dubbio su questo. Oggi di fatto robot e computer ci stanno eguagliando su molti aspetti, e probabilmente presto faranno meglio di noi. Ma attenzione, non dobbiamo pensare a robot che ci assomigliano o necessariamente, no? Non è questo. In fondo il lavoratore deve avere delle caratteristiche molto precise, quindi i robot e gli algoritmi che si stanno sviluppando servono per risolvere compiti lavorativi, non certo per assomigliarci. Non a nessuno importa che assomiglino a un essere umano. Nello specifico, non è necessario che provino emozioni e sensazioni, non è necessario che abbiano una coscienza, anche se tutto sommato noi neanche sappiamo bene cosa sia una coscienza a livello scientifico, no? Comunque per ora è così, poi magari domani potrà essere diverso. Intelligenza e coscienza finora sono sempre andati di pari passo, no? Si diceva sempre che appunto servivano tutte e due per poter eccellere. Allora non so, per guidare un'auto, per fare una diagnosi medica, oppure per giocare a scacchi, si è sempre pensato che dovesse servire un essere umano. Ci sono delle attività molto molto verticali, come il fisionomista, un'attività in cui l'essere umano ha sempre pensato di eccellere rispetto a una macchina. Fino a non pochi anni fa c'erano agli aeroporti, alle frontiere, sbirri che si mettevano lì a guardare chi passava ed erano bravissimi, con, diciamo che appunto si definivano fisionomisti, e quindi riconoscevano subito se c'era qualche sospetto, qualche persona che dal modo in cui muoveva gli occhi o si muoveva, insomma, riuscivano a capire se quella persona poteva avere essere un sospetto, oppure ancora assomigliava a qualcuno di sospetto. Ecco, queste cose ormai non esistono più, questi lavori, perché i computer lo fanno molto molto molto molto molto molto molto molto meglio di noi, quindi non c'è nessuna esigenza di avere dei poliziotti fisionomisti, quindi non serve nessuna coscienza per fare meglio di noi, basta riconoscere i pattern. Ecco, questo fanno i computer, quindi una volta che uno gli dà la faccia di miliardi di persone, in poco tempo, quello che serve per elaborare, si passano in rassegna queste facce, si riconoscono e vengono subito identificate le persone. Si è visto per esempio nei casi di terrorismo legato all'ISIS che abbiamo avuto recentemente, addirittura basta anche nei casi di incappucciamento, basta semplicemente l'occhio, gli occhi. Quindi semplicemente riconoscendo distanza, grandezza, imperfezioni, mille cose che riguardano già semplicemente gli occhi, in poco tempo, in giro di ore, si ha un nome e un cognome. Poi vabbè, dietro ovviamente chissà se quelle persone sono davvero quelle che l'hanno, però al di là di questo, tecnologicamente questa cosa sta avvenendo, avviene il riconoscimento di pattern. Quindi la consapevolezza è proprio un optional, cioè una cosa di cui il mondo economico può anche fare a meno. Gli eserciti e le aziende non hanno bisogno di coscienza, non hanno bisogno di esperienze soggettive, hanno bisogno di intelligenza pura. Allora andiamo ancora un po' più in un esempio specifico, il taxi. Ecco, qui è uno dei lavori che è destinato a scomparire a breve. Un tassista ha delle esperienze soggettive, è un essere umano, no? Oggi. Chiaramente sono enormemente superiori le sue esperienze rispetto a quelle che può avere un'auto a guida autonoma. Immaginiamo questo tassista che guida nelle trafficate strade di Seoul e ascolta la musica alla sua autoradio, gode di questa musica e gli vibra tutto il corpo quando l'ascolta. Poi la sera torna a casa, contempla le stelle e si interroga sui misteri dell'universo, vede la figlia che compie i primi passi e piange. Ecco, noi queste cose non ci servono, noi ci serve che quel tassinaro, il tassista, ci porti da un punto A a un punto B in modo veloce, sicuro ed economico, non c'è altro. Allora ci ricordiamo per esempio cosa accadde quando fu introdotta l'automobile, no? Un cavallo può odorare, amare, riconoscere, può saltare una staccionata molto meglio di una Lamborghini, tuttavia le auto hanno sostituito i cavalli. È possibile che lo stesso destino sia riservato ai tassisti. E parlando di automobili, che è un altro di quei temi in cui, insomma, di quelli di cui poi si parla perché sta già succedendo, supponiamo che si vieti a un certo punto agli umani di guidare, a tutti gli umani, e si connettono semplicemente questi veicoli a guida autonoma in rete. Risultato: zero incidenti, zero traffico, subito, cioè immediato. Stanno già facendo prove, sappiamo che le auto a guida autonoma hanno un tasso di incidenti prossimo allo zero, al contrario di quello che avviene quando a guidare sono esseri umani, e zero traffico è evidente. Se c'è un algoritmo che decide qual è il flusso veicolare, suggerisce alle macchine dove andare, e ovviamente non dice a tutti di spostarsi dalla Tuscolana alla Salaria e poi si occupa tutta la Salaria, una parte va di là e una parte va di là, quindi sa come fare, un algoritmo sa come fare, noi no, ci metteremo troppo tempo, non ce la facciamo. Allora è successo nel 2015 che l'automobile di Google ha avuto un incidente. È un fatto incredibile, no? Addirittura un incidente, l'auto a guida autonoma. Cosa era successo? Beh, era successo che dei pedoni non erano sicuri se attraversare o meno la strada, quindi precauzionalmente l'auto di Google, anche se non c'erano le strisce, ha frenato di botto e nel frenare ha subito un tamponamento dietro quindi c'era qualcuno che non è riuscito a fermarsi. Questo è stato l'incidente. Aveva ragione l'auto di Google, lo sappiamo come funziona il codice della strada, però insomma noi annoveriamo questo come incidente. Cosa stava facendo quello che guidava dietro, quell'essere umano che guidava dietro? Forse stava contemplando i misteri dell'universo, possibile. Ma se invece entrambi i veicoli fossero stati tra loro connessi, questo incidente non sarebbe avvenuto. Ecco, questo è un po' un esempio simpatico, ma è vero, cioè se ci saranno automobili a guida automatica risparmieremo tempo, denaro e vite umane. Certo, elimineremmo l'esperienza di guidare un'automobile per un essere umano, ma tutto sommato possiamo anche farne a meno, non è così importante. Se l'automobile ci viene a prendere sotto casa al momento giusto e ci porta in modo veloce e sicuro nel posto dove dobbiamo andare, va benissimo così. Ecco, l'unica cosa che, diciamo, il side effect di tutto questo è che perdiamo 10 milioni di posti di lavoro. Ok, quindi insomma sono temi abbastanza grossi, no? Altri temi diciamo classici, il tema della finanza, anche questo è un tema appunto comprensibile, ma soprattutto perché ci sono esempi in cui esempi pratici di cose che stanno già avvenendo. Sappiamo che i robot e le stampanti 3D stanno sostituendo gli operai in molte attività, per esempio nella produzione di camicie, cioè una produzione dove fino a poco tempo fa si riteneva indispensabile l'utilizzo di esseri umani. Questa cosa sta invece tramontando. Algoritmi faranno lo stesso con i colletti bianchi, quindi non è che solamente gli operai risentiranno di questo, ma anche chi si occupa di servizi sarà facilmente, anzi ancora più facilmente sostituito da algoritmi. Impiegati di banca e da agenti di viaggio erano tradizionalmente dei posti d'oro in cui lavorare, perché erano posti dove l'elemento umano era indispensabile, invece adesso sono a rischio. E vediamo allora gli operatori di borsa, anche questi sono a rischio. Le macchine, gli algoritmi sono in grado in un secondo di analizzare più dati di quelli che un uomo potrebbe analizzare in un anno, e possono reagire, e voi sapete che in finanza questa cosa è fondamentale, no? La reazione rapida agli accadimenti, la reazione rapida a ciò che sta succedendo sulla base dell'analisi dei dati, sono in grado di reagire in tempi infinitesimali, cioè più meno lunghi di un secondo. Allora, cosa vi racconto? Che il 23 aprile 2013 degli hacker siriani violarono un account Twitter dell'Associated Press, che è un'agenzia di stampa. Questo avveniva esattamente alle ore 13:07. Riuscirono a far twittare l'Associated Press con questa notizia falsa: la Casa Bianca è stata attaccata, Obama è stato ferito, 13:07. Dopo 60 secondi l'indice di Dow Jones ha perso 150 punti, ovvero 136 miliardi di dollari. Alle 13:10 Associated Press è riuscita a dire che era un falso, e alle 13:13 le perdite sono state recuperate interamente. Ecco, questi sono i tempi della finanza. Ok, e qui l'elemento umano c'è ancora, no? E invece in quest'altra che vi racconto ancora peggio: 6 maggio 2010, dalle ore 14:42 alle ore 14:47, quindi per 5 minuti esatti, l'indice Dow Jones ha perso 1000 punti. In 5 minuti ha perso 1000 punti, pari a 1000 miliardi di dollari. Lo hanno chiamato il flash crash. E non si sa ancora il motivo, non è noto il motivo. C'è stato qualcosa che non ha funzionato negli algoritmi, dicono. Qualcun altro dice che invece c'è un motivo, ovviamente si è dato spazio alle speculazioni in quei 5 minuti. Fatto sta che gli operatori che sono stati danneggiati da questa colossale perdita hanno fatto causa contro il sistema di trading basato su algoritmi, e lo hanno citato in giudizio per concorrenza sleale. Cioè un uomo non può reagire con una velocità tale per competere con queste con questi algoritmi che in 5 minuti ti fanno 1.000 miliardi di disavanzo, cioè è impossibile. Vediamo come andrà a finire questa causa. E allora intanto prendiamoci un'altra pausa musicale e ci ascoltiamo musica prodotta da esseri umani, e nello specifico un pezzo dei Cazzo. Ale. Divento vecchio e noioso, pietoso e ridicolo. Vorrei gettarmi nel vuoto e finire distrutto, un rutto e una lacrima. Silenzio affogare in mare o in un bidet. E poi al supermercato ho preso un litro di vino, una penna e una busta blu. Busta, chissà se mi rimpiangerai. Allora torniamo in diretta con la trasmissione Entropia Massima, tema sull'intelligenza artificiale. Passiamo a un'altra categoria di lavoratori, gli avvocati. Ecco, gli avvocati, dice, ma questa è proprio un'attività umana, no? Noi ci immaginiamo queste arringhe appassionate di questi avvocati dei film americani che si alzano e dicono obiezione vostro onore. Sappiamo che insomma chi è avvocato sa che queste sono scemenze da film, no? Qual è il lavoro di un avvocato in realtà? È quello di studiare tutti i precedenti, trovare qualunque cosa possa essere interessante a cui appigliarsi, ricercare dei minuscoli dettagli che possono determinare un favore del proprio cliente. Ecco, questo è il vero lavoro dell'avvocato, un lavoro certosino, un lavoro analitico. Oppure un altro classico lavoro è scrivere un contratto che protegga il proprio cliente contro ogni eventualità. Anche questo però insomma è molto poco romantico, cioè un lavoro proprio analitico. Ecco, in questo gli algoritmi possono studiare più precedenti e con più velocità. In un giorno possono studiare tutto quello che un uomo può studiare in un'intera vita, e quindi è chiaro che anche questa professione è a rischio una volta che questi algoritmi saranno diffusi. Inoltre, se vogliamo proprio dirne un'altra, attraverso gli scanner cerebrali che si stanno diffondendo, poi facciamo una puntata specifica su questo, è possibile già oggi trovare le menzogne, cioè stabilire che una persona sta mentendo. Questo è possibile anche farlo semplicemente, tra virgolette, guardando le espressioni facciali di una persona o il tono della voce. Ci sono persone che sono molto bravi a scoprire menzogne. Ecco, le macchine sono ancora più bravi delle persone più bravi, enormemente più bravi. Quello che fanno le macchine è verticalmente andare nei compiti più specifici dell'essere umano, quelli che uno dice: oh, ma studia le cose specifiche e poi ti troverai in buon posto di lavoro e non te lo toglie nessuno. Proprio il contrario sta succedendo, nei compiti più specifici e di specializzazione. È proprio lì che le macchine eccellono, perché è una cosa che ha a che fare con l'efficienza. E quando questo sarà diffuso, no? Non solo gli avvocati, ma anche giudici, poliziotti, investigatori saranno completamente inutili. Ok, vi abbiamo fatto qualche esempio. Magari uno potrebbe dire: sì, però dai, la creatività che ha l'essere umano non ce la può avere una macchina. Stanno lavorando anche a questo i ricercatori, e ci sono già oggi delle macchine che compongono musiche. Pure su questo faremo una puntata. Oggi, solo per fare un esempio, vi facciamo sentire due brevi componimenti. Cominciamo dal primo. Il primo è una canzone composta da una macchina, quindi non da un essere umano, che è stata fatta simile a come l'avrebbero fatta i Beatles. Ascoltiamone a pochi secondi. Ecco, insomma, è un esempio, no? Come l'hanno fatta? Gli hanno fatto ascoltare tutta la discografia dei Beatles, gli hanno detto: adesso componila tu. Ha composto questa. E adesso vediamo un'altra composizione, un'improvvisazione jazz. Ok, è emozionante sentire queste musiche. Sono musiche non prodotte da un essere umano, ma da una macchina. Forse potranno essere giudicate elementari, poi in realtà vedremo, quando ne parleremo nelle prossime puntate, ci sono anche casi più impressionanti. E comunque, come prima puntata, ci possiamo fermare qui, anche perché abbiamo iniziato un po' in ritardo e non possiamo tenerci troppi minuti per la trasmissione che segue, che è Tabula Rasa. Quindi tra poco cederemo la parola. Quindi, insomma, come sapete, l'orario quest'anno è diverso. Iniziamo alle 8 e in teoria, poi oggi abbiamo iniziato in ritardo perché chi ci precedeva è andato un po' più lungo. Comunque, il nuovo orario di Entropia Massima è: si inizia alle 8 e si finisce alle 8:45. Ci siamo presi giusto 3-4 minuti in più per recuperare. E diciamo che ci possiamo salutare qui. E vogliamo chiaramente in chiusura salutare soprattutto chi ci ascolta privato della propria libertà personale o dietro le sbarre. E un saluto a tutti e a tutte, e alla prossima puntata, al prossimo lunedì ore 8 con Entropia Massima.